Italia in controluce. 13 e 33 minuti, buongiorno gentili ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento su Radio 24 con le storie della cronaca che ci danno punti di vista originali, diversi da quelli che avete già sentito altrove. Italia in controluce. Stanno rientrando in Italia in queste ore i tre operatori di Emergency arrestati il 10 aprile in Afghanistan, liberati una settimana dopo, domenica 18 aprile a Kabul. Dal sito giornalistico di Peace Reporter abbiamo la possibilità di sentire le loro testimonianze. Mentre loro sono in viaggio verso l'Italia con un volo commerciale fino a Francoforte, perché come sapete hanno rifiutato il volo di Stato, e poi di lì in Italia con un pullman privato, visto che il loro volo da Francoforte per Milano è stato cancellato a causa dei disagi che tutti hanno dovuto subire a causa della nube islandese. Proviamo allora a ripercorrere quanto successo con le voci dei protagonisti. Sabato 10 aprile si diffonde la notizia dell'arresto di due medici e un logista di Emergency che lavorano assieme al personale locale nell'ospedale di Lashkargah in Afghanistan. Per loro l'accusa è pesante: avere complottato per uccidere il governatore di Helmand. Marco Garatti racconta così il momento dell'arresto. Matteo, il logista, ha ricevuto una telefonata in cui si diceva che gli internazionali dovevano muoversi molto rapidamente e andarsene dall'ospedale e rifugiarsi a casa. Quindi noi siamo andati e a casa abbiamo aspettato di ricevere ulteriori notizie. La notizia era che un gruppo di terroristi inseguito dalla polizia aveva intenzione di entrare nell'ospedale di Emergency. 5 minuti dopo nemmeno, la stessa persona che ci aveva informato inizialmente del presunto fatto ci ha pure informato che adesso la situazione era tranquilla e che tutto era tranquillo attorno all'ospedale. Immediatamente dopo, un minuto dopo, un medico dell'ospedale nazionale afghano dell'ospedale di Emergency ci ha chiamato dicendo che invece la polizia era entrata nell'ospedale, le forze speciali, l'esercito. Noi tre quindi abbiamo detto al resto dello staff internazionale di rimanere a casa e con una macchina siamo andati verso l'ospedale. Poco prima di arrivare in ospedale, all'angolo delle due strade che circondano appunto l'ospedale, siamo stati fermati e arrestati. Inizialmente le autorità italiane aspettano di verificare l'attendibilità di queste pesanti accuse. Il ministro Frattini si dice fiducioso sulla giustizia afghana, mentre Gino Strada, fondatore di Emergency, chiede all'Italia di intervenire con la massima urgenza. Altra testimonianza, Matteo Dall'Aira e Matteo Pagani raccontano i primi momenti dopo il loro arresto. Eravamo all'oscuro di tutto e, come dice Marco, anche per me assolutamente uno shock terribile, proprio perché non sapevamo nulla, perché nel nostro ospedale non è mai entrata una persona con le armi, quindi lo sanno tutti, per cui vedere l'ospedale invaso da persone con armi è stato forse uno dei momenti più brutti e dolorosi per noi rispetto a Emergency, voglio dire. Appena sono andati via Marco e Matteo, mi hanno lasciato là, fatto girare la panchina contro il muro e io guardavo questo muro bianco. Così per un'ora ogni tanto mi guardavo indietro, c'era sempre tantissima gente armata e dopo sarà passato almeno mezz'ora, tre quarti d'ora, mi dicono di alzarmi e andare in OPD. Entro in OPD dove c'era il resto dello staff nazionale, poche parole, e dopo 5-10 minuti mi hanno detto di uscire da là e di seguirli. Da là mi hanno preso, fatto ammanettato, mi hanno fatto montare sulla macchina e diciamo molto rapidamente mi hanno riportato lì nelle carceri. Nei giorni successivi all'arresto il governo italiano si muove e invia un emissario a Kabul che riesce ad incontrare i tre operatori di Emergency. Lentamente però le accuse di complotto sembrano non reggere, anzi piano piano scompaiono del tutto. Si giunge così al felice epilogo, alla liberazione. Ancora Marco Garatti. Abbiamo incontrato il direttore del dipartimento, che peraltro è venuto quasi regolarmente a visitarci in cella. Ci hanno informato che avremmo avuto prima un meeting con alcuni responsabili della sicurezza afghana che ci avrebbero spiegato le risultanze dell'inchiesta e successivamente saremmo stati consegnati all'ambasciatore italiano. Siamo andati appunto in questa Dipartimento della Sicurezza afghana, ci hanno portato lì e fuori in un gazebo all'esterno ci siamo seduti con i responsabili della sicurezza e loro ci hanno spiegato che cosa avevano trovato, appunto perché il nostro nome e il nome di Emergency avevano capito che non c'entrava assolutamente nulla, quindi noi siamo stati felici di questo e abbiamo chiesto appunto che una garanzia che il nostro nome, la dignità e il nome di Emergency fosse assolutamente pulito, e ci ha assicurato che appunto non c'era nessun problema, nel senso che noi eravamo nel momento in cui si avrebbe poi consegnato l'ambasciatore italiano, cittadini italiani liberi, liberi anche di stare in Afghanistan se volevamo, perché assolutamente non c'entravamo nulla con quello che loro avevano scoperto con l'indagine. Questa dunque è la verità dei tre operatori di Emergency. Resta per ora il giallo di questo arresto, dal momento che le accuse nei loro confronti sono cadute completamente. Ma adesso un'altra storia. Italia in controluce. Dopo la Sicilia, la Calabria, imprenditori, commercianti e associazioni sono in movimento contro il racket. Sull'esempio della palermitana Addio Pizzo, anche l'associazione Libera in Calabria ha promosso un cammino per liberare le attività economiche dalle richieste pressanti dell''ndrangheta, un cammino iniziato oltre un anno fa e culminato ieri sera. Auditorium pieno a Reggio Calabria con tanti giovani per questa iniziativa, e questo è già un successo che per ora ha un valore simbolico, ma si sa che certe volte i simboli contano, e come ci racconta Anna Migliorati. L'obiettivo è liberare la città dalla 'ndrangheta, è un obiettivo, come tu capisci, facile, noi altrimenti non avremmo voglia di lottare. Mimmo Nasone è referente calabrese di Libera, ma con lui ieri sera a Reggio Calabria c'erano 58 associazioni. In un auditorium di San Paolo pieno c'è stato anche chi si è lasciato andare all'ottimismo. Oggi i commercianti di Reggio Calabria, gli imprenditori, dopo questa nostra cosa, obbligatoriamente dovranno portarsi allo specchio. È stato l'atto di nascita di una rete anti-racket che sulla scia dell'addio pizzo siciliano vuole provare a scalfire il racket d'andrangheta. Un pezzo non secondario nello scenario nazionale, con una stima di 9 miliardi l'anno del giro d'affari per la criminalità organizzata. Ma se in Sicilia la storia dell'antipizzo è ormai lunga, qui nell'aspra Calabria è una partita solo ai primi minuti, e Nasone ne è convinto. Ma questo è un dato di fatto, nel senso che è un fatto storico che, tranne casi proprio a macchia di leopardo, non so, Cittanova negli anni 90, Lamezia più recentemente, in genere nel nostro contesto calabrese non ci sono molti esempi di denunzie coraggiose organizzate contro il racket. Si dice che l''ndrangheta in questo momento sia la mafia più forte, almeno economicamente. Purtroppo è così. Miliardi di euro che gestiscono, che riescono a riciclare poi nell'economia pulita, nelle imprese, nell'imprenditoria, ma non solo al sud, poi in giro per il mondo, si sono globalizzati, hanno interessi in America Latina, in Russia, in Cina, dappertutto. È cosa di famiglia, c'è un legame di sangue, per cui è difficile che ci siano i pentiti di 'ndrangheta, proprio perché il pentito dovrebbe tradire un suo familiare. Pochi esempi, qualcuno ce n'è però. Uno di questi è Tiberio Bentivoglio, piccolo imprenditore, titolare della sanitaria Sant'Elia, che per 15 anni ha subito minacce e ricatti. Chi è dentro, chi ha scelto di stare dall'altro lato della barricata, gli può illustrare a chi fare anti-racket significa aiuto prima di tutto a chi ha denunciato. E l'aiuto non è solo la solidarietà, il corteo, intitolare una piazza, col solito colpetto sulla spalla, quello non basta. Chi è dentro ha un'attività distrutta, è stato cacciato dalle banche, è stato cacciato un po' dai fornitori che non lo servono più come prima. Abbiamo dovuto subire i primi attentati che sono stati nel 92 e poi dopo, successivamente nel 98. Ci siamo costituiti parte civile ai procedimenti che man mano sono venuti avanti, e costituendoci parte civile è come se avessimo messo la firma su un contratto di una disputa aperta fra noi e il racket. È una cosa personale. Una cosa personale. Ieri sera non c'erano gli imprenditori, ma anche qui Confindustria, sulla scia della Sicilia, ha scelto la sua strada. Il presidente di Confindustria Calabria è Umberto De Rose. Insomma, ormai siamo partiti con un programma che prevede ovviamente la costituzione dei parti civili in tutti i processi di mafia. Noi siamo già stati costituiti in due processi, in uno addirittura abbiamo avuto per la prima volta in Italia come parte civile il risarcimento dei danni. Ovviamente in Sicilia lo Stato è stato presente con i suoi migliori uomini, cosa che ancora qui in Calabria diciamo sta cominciando ad avvenire adesso, però la reazione della società civile calabrese mi sembra molto più forte. Le denunce di estorsione, contro estorsione e pizzo sono più che quintuplicate nell'ultimo anno. Ieri sera Libera ha consegnato 5 vetrofanie, più medaglie che semplici bollini. Sono andati a chi ha già fatto il primo passo, ma l'obiettivo è più ambizioso. Abbiamo scelto di darne pochi perché li abbiamo voluto dare soltanto a chi avesse denunziato e ad altre due realtà di cui siamo certi che non c'è nessuna collusione o nessuna possibilità di inquinamento. Abbiamo in programma di darne altre 40-50 il prossimo mese, ma vogliamo approfondire, capire se sono veramente libere, perché il problema non è io non pago il pizzo e finisce lì. Bisogna anche capire se queste imprese sono in regola, se pagano le tasse, se pagano regolarmente i loro operatori. E così ieri, al di là della festa, le 58 associazioni che hanno dato il via alla lotta al racket in Calabria si sono date un compito non certo facile. Perché quando finiremo ce ne andremo con dei compiti per casa, gravosi, tutti quanti. Così dunque in Calabria è tutto per l'edizione di oggi di Italia in Controluce. Al coordinamento Daniele Biacchessi, regia oggi Pietro Lacorte. Se volete commentare i nostri servizi o segnalarci le vostre storie, controluce@radio24.it. Ci sentiamo domani.